510. Baccalà fritto. La padella è l'arnese che in cucina si presta a molte belle cose, ma il baccalà a me pare vi trovi la fine più deplorevole, perché dovendo prima essere lessato e involtate in una pastella, non vi è condimento che basti a dargli conveniente sapore. E però alcuni, non sapendo forse come meglio trattarlo, lo intrugliano nella maniera che sto per dire. Per lessarlo mettetelo al fuoco in acqua ghiaccia e appena abbia alzato il primo bollore, levatelo che già è cotto. Senz'altra manipolazione si può mangiar così condito con olio e aceto. Ma veniamo ora all'intruglio che vi ho menzionato, padronissimi poi di provarlo o di mandare al diavolo la ricetta e chi l'ha scritta. Dopo lessato, mettete in infusione il pezzo del baccalà tutto intero nel vino rosso e tenetecelo per qualche ora. Poi asciugatelo in un canovaccio e tagliatelo a pezzetti nettandolo dalle spine e dalle lische. E infarinatelo leggermente e gettatelo in una pastella semplice di acqua, farina e un gocciolo d'olio senza salarla. Friggetelo nell'olio e spolverizzatelo di zucchero quando avrà perduto il primo bollore. Mangiato caldo, l'odor del vino si avverte appena. Non pertanto, se lo trovate un piatto ordinario, la colpa sarà vostra che l'avete voluto provare.